Capitolo 84. Fu proprio dopo che la Camera dei Lord ebbe respinto il disegno della legge elettorale. Questo spiega perché Mr. Cadwallader si trovasse a passeggiare per il declivio del prato vicino alla grande serra di Freshitole, stringendo il Times nelle mani allacciate dietro la schiena, mentre parlava con l'imparzialità di un pescatore di trote sulle prospettive del paese con Sir James Chatham. Mrs. Cadwallader, la vecchia Lady Chatham e Celia, a volte erano sedute su sgabelli, a volte camminavano intorno al piccolo Arthur che veniva trasportato sul cocchio e, come si conveniva, a quel Buddha infantile era al riparo del sacro ombrello stupendamente orlato di seta. Anche le donne parlavano di politica, sebbene più saltuariamente. Mrs. Cadwallader aveva parole di sdegno per la progettata creazione di nuovi pari. Aveva saputo per certo dal cugino che Traberi era passato all'altro partito del tutto dietro istigazione della moglie, la quale aveva fiutato la possibilità che il marito ricevesse il titolo di pari fin da quando era stata posta per la primissima volta la questione della riforma, e avrebbe venduto l'anima per avere la precedenza sulla sorella minore che aveva sposato un baronetto. Lady Chatham giudicò una simile condotta assai riprovevole e ricordò che la madre di Mrs. Traberi era una Miss Walsingham di Mulspring. Celia confessò che era più bello essere Lady che Mrs. e che a Dodo non importava la precedenza se avesse potuto fare di testa propria. Mrs. Cadwallader sostenne che era una misera soddisfazione avere la precedenza quando tutti coloro che circondavano una persona sapevano che non aveva una sola goccia di sangue blu nelle vene. E Celia, di nuovo, fermandosi a guardare Arthur, disse: «Sarebbe bello però se fosse un visconte e il dentino di sua signoria cominciasse a spuntare. Avrebbe potuto esserlo se James fosse stato un conte». «Mia cara Celia», disse la nobile vedova, «il titolo di James vale molto di più di qualsiasi nuovo titolo di conte. Non mi sono mai augurata che suo padre fosse qualcosa di più che Sir James». «Oh, parlavo solo del dentino di Arthur», disse Celia con aria serena. «Ma guardate, ecco mio zio che arriva». Si allontanò, saltellando per andare incontro allo zio, mentre Sir James e Mr. Cadwallader si facevano avanti per fare gruppo unico con le donne. Celia aveva infilato il braccio in quello dello zio e questi le diede dei colpetti sulla mano con un «Beh, mia cara», alquanto malinconico. All'avvicinarsi, fu chiaro che Mr. Brooke appariva abbattuto, ma questo lo si spiegava benissimo con la situazione politica. E mentre stringeva le mani di tutti coloro che lo circondavano, senz'altro convenevole che un «Beh, siete tutti qui, vedete», il pastore disse con aria ridanciana: «Non prendetevi tanto a cuore la bocciatura del disegno di legge, Brooke. Avete tutta la marmaglia del paese dalla vostra». «Il disegno di legge, eh?» fece Mr. Brooke con aria lievemente distratta. «Bocciato, lo sapete, eh? I Lord stanno andando troppo in là, però dovranno fermarsi. Brutte notizie, sapete. Voglio dire, qui da noi, brutte notizie. Ma non potete dare la colpa a me, Chatham. Cos'è successo?» chiese Sir James. «Non un altro guardiacaccia ucciso a fucilate, spero. È quello che mi aspetterei quando un tipo come Trapping Bess viene lasciato libero con tanta facilità». «Guardiacaccia? No. Andiamo dentro. In casa potrò dirvi tutto, sapete?» disse Mr. Brooke, annuendo alla volta dei Cadwallader per far capire che metteva anche loro a parte delle sue confidenze. «Quanto ai bracconieri, come Trapping Bess, sapete», Chatham proseguì mentre stavano entrando, «quando sarete magistrato, non troverete così facile condannare. La severità sta benissimo, ma vi riesce molto più facile quando c'è qualcuno che la applichi per voi. Voi stesso avete un punto debole nel cuore, lo sapete? Non siete un Dracone, un Jeffries, una persona di quel genere». Mr. Brooke era evidentemente in uno stato di turbamento mentale. Quando doveva dire qualcosa di doloroso, era sua abitudine introdurlo fra una quantità di particolari sconnessi, come se fosse una medicina che avrebbe preso un sapore più gradevole mescolandola. Continuò a chiacchierare dei bracconieri con Sir James finché non furono tutti seduti e Mrs. Cadwallader, non sopportando queste ciance, disse: «Muoio dalla voglia di sapere la brutta notizia. Il guardiacaccia non è stato ucciso, questo è certo. Di cosa si tratta allora?» «Beh, è una cosa assai penosa, sapete», disse Mr. Brooke. «Sono lieto che voi e il pastore siate qua. È una faccenda di famiglia, ma voi ci aiuterete tutti a sopportarla, Cadwallader». Devo fartela sapere, mia cara. A questo punto, Mr. Brooke guardò Celia. Non hai idea di cosa si tratti, lo sai? E Chatham vi irriterà in misura fuori del comune. Ma vedete che non siete riuscito ad impedirlo, non più di me. C'è qualcosa di singolare nelle cose. Hanno cambiato direzione, capite? Deve trattarsi di Dodo, disse Celia, che era abituata a considerare la sorella la parte pericolosa della macchina familiare. Si era seduta su uno sgabello basso contro il ginocchio del marito. Per amor di Dio, sentiamo di cosa si tratta, esclamò Sir James. Beh, sapete, Chatham, non ho potuto evitare il testamento di Casabo. Era un genere di testamento fatto per peggiorare le cose. Esattamente, si affrettò a dire Sir James. Ma cosa c'è di peggio? Dorotea ha intenzione di risposarsi, capite? Disse Mr. Brooke, annuendo alla volta di Celia, la quale immediatamente levò uno sguardo impaurito verso il marito e si posò le mani sulle ginocchia. Sir James era quasi sbiancato dall'ira, ma non parlò. Cielo misericordioso, esclamò Miss Cadwallader. Non col giovane Ladislav? Mr. Brooke annuì, dicendo: Sì, con Ladislav. E poi prudentemente si zittì. Lo vedete, Humphrey? Esclamò Mrs. Cadwallader agitando il braccio alla volta del marito. Un'altra volta ammetterete che non posso prevederle le cose, o meglio, mi contraddirete e sarete esattamente cieco come sempre. Voi supponevate che quel giovanotto se ne fosse andato dal paese. E infatti può darsi che lo abbia fatto e tuttavia sia ritornato, disse il pastore con aria placida. Quando lo avete saputo? Chiese Sir James, che non gradiva sentir parlare nessun altro, sebbene gli fosse difficile parlare a sua volta. Ieri, disse Mr. Brooke in modo mite, sono andato a Lowick. Dorotea mi aveva mandato a chiamare, capite? Era successo del tutto all'improvviso. Nessuno dei due ci pensava neppur lontanamente. 2 giorni fa. Neppur lontanamente. C'è qualcosa di singolare nelle cose, ma Dorotea è fermamente decisa. Inutile opporsi. Mi sono fatto sentire, altro che. Ho fatto il mio dovere, Chatham, ma lei può agire come vuole, capite? Sarebbe stato meglio se l'avessi sfidato e ammazzato un anno fa, disse Sir James, non per un impulso sanguinario, ma perché aveva bisogno di dire qualcosa di grosso. Veramente, James, la cosa sarebbe stata assai sgradevole, disse Celia. Siate ragionevole, Chatham. Considerate la faccenda con più calma, disse Mr. Cadwallader, dispiaciuto dalla vista del suo buon amico così sopraffatto dall'ira. La cosa non è poi così facile per un uomo con un qualche senso di dignità, con un qualche senso di giustizia, quando si dà il caso che la faccenda avvenga in seno alla sua stessa famiglia, disse Sir James, ancora al culmine dell'indignazione. È veramente scandaloso. Se Ladislav avesse avuto una briciola di onore, se ne sarebbe andato subito dal paese e non ci sarebbe più tornato a mostrare la faccia. Comunque non sono sorpreso. Il giorno dopo il funerale di Casabo dissi cosa si sarebbe dovuto fare, ma non mi si è dato ascolto. Volevate l'impossibile, lo capite, Chatham? Disse Mr. Brooke. Volevate spedirlo via in una nave. Vi dissi che Ladislav non era il tipo da lasciarsi trattare come volevamo noi. Aveva le sue idee, era un tipo degno di nota. L'ho sempre detto che era un tipo degno di nota. Sì, fece Sir James, incapace di soffocare un rimprovero. È davvero un peccato che vi siate fatto un'idea così lusinghiera di lui. È stato grazie a questa se è stato alloggiato da queste parti, e grazie a questa se vediamo una donna come Dorotea degradarsi sposandolo. Sir James metteva dei piccoli intervalli fra le frasi finché le parole non gli venivano con facilità. Un uomo così bollato dal testamento del marito. Che la delicatezza avrebbe dovuto proibirle di rivedere, che la toglie dal rango che le spetta per trascinarla nella povertà, che ha la bassezza di accettare un simile sacrificio, che ha sempre occupato una posizione deplorevole, delle origini poco belle e credo un uomo quasi senza principi di carattere frivolo. Questa è la mia opinione. Sir James concluse con enfasi, volgendosi di lato e accavallando le gambe. Le ho fatto osservare tutto, disse Mr. Brooke in tono contrito. Voglio dire la povertà e la rinuncia alla sua posizione sociale. Ho detto, mia cara, non sai cosa significhi vivere con 700 sterline all'anno e non avere carrozza e cose del genere e andare fra della gente che non sa chi sei. Mi sono fatto sentire, ma consiglio a voi di parlare con Dorotea. Il fatto è che lei nutre un'avversione per il patrimonio di Kesabo. Sentirete quello che vi dice, sapete? No, scusatemi, non lo farò, disse Sir James con maggiore freddezza. Non posso sopportare di rivederla, è troppo penoso. Mi duole troppo che una donna come Dorotea abbia fatto ciò che è sbagliato. Siate giusto, Chetan, disse il placido pastore dalle labbra carnose al quale non andava genio tutta questa afflizione non necessaria. Può darsi che Mrs. Kesabo agisca da imprudente, rinuncia a una fortuna per amore di un uomo, e noi uomini abbiamo un'opinione così brutta l'uno dell'altro che ben difficilmente potremo chiamare saggia una donna che lo fa. Ma credo che non dovreste condannarla come un'azione sbagliata nel senso stretto della parola. Sì, lo faccio, rispose Sir James. Penso che Dorotea commetta un'azione sbagliata nello sposare Ladislav. Mio caro amico, noi siamo alquanto soggetti a considerare sbagliata un'azione perché non ci riesce gradevole, dice il pastore pacifico. Come molti uomini che prendono la vita alla buona, aveva la capacità di dire di quando in quando una verità profonda a coloro che si sentivano presi da una virtuosa collera. Sir James tirò fuori il fazzoletto e cominciò a morderne l'angolo. Però è terribile quello che fa Dodo, disse Celia desiderando giustificare il marito. Aveva detto che non si sarebbe mai sposata di nuovo, assolutamente con nessuno. Io in persona l'ho sentita dire la stessa cosa, fece Lady Chatham con aria maestosa, come fosse la testimonianza di una regina. Oh, in casi simili c'è di solito una muta eccezione, disse Mrs. Cadwallader. L'unica cosa che mi stupisce è che tutti quanti siate sorpresi. Non avete fatto niente per impedirlo. Se aveste fatto venire Lord Triton da queste parti a corteggiarla con la sua filantropia, forse avrebbe potuto portarsela via prima di un anno. Non c'era sicurezza in nient'altro. Mister Kesabo aveva preparato tutto quanto nel miglior modo possibile. Si era reso sgradito, o piacque a Dio renderlo tale, e poi l'ha sfidata a contraddirlo. È il modo per rendere allettante ogni orpello, esporla a un alto prezzo in quel modo. Non capisco cosa intendiate dire con sbagliato, Cadwallader, disse Sir James, sentendosi ancora un poco punto sul vivo e volgendosi seduto come era verso il pastore. Non è un uomo che possiamo accettare nella famiglia. Almeno io parlo per me, proseguì facendo bene attenzione a tenere gli occhi lontani da Mr. Brooke. Suppongo che gli altri troveranno la sua compagnia troppo piacevole per tenere nel dovuto conto la correttezza della cosa. Beh, sapete, Chatham, disse Mr. Brooke di buon umore, accarezzandosi la gamba. Io non posso voltare le spalle a Dorotea. Devo farle da padre fino a un certo punto. Ho detto, mia cara, non mi rifiuterò di portarti all'altare. Prima mi ero fatto sentire, e come? Ma posso toglierle il lascito, sapete? Costerà soldi e comporterà delle seccature, ma posso farlo, sapete? Mr. Brooke annuì verso Sir James, convinto di mostrare la propria energica risolutezza e di lenire proprio ciò che suscitava l'irritazione del baronetto. Aveva preso un modo di parare i colpi più ingegnoso di quanto si rendesse conto. Aveva toccato un punto di cui Sir James si vergognava. La congerie dei suoi sentimenti sul matrimonio di Dorotea con Ladislav era in parte frutto di pregiudizi scusabili o magari opinioni giustificabili, in parte dovuta a un senso di gelosa ripugnanza poco minore, nel caso di Ladislav che in quello di Kesabo. Era convinto che il matrimonio fosse un passo fatale per Dorotea, ma tra questi sentimenti se ne nascondeva uno che era un uomo troppo onesto e onorato per confessarlo persino a se stesso. Era innegabile che l'unione delle due tenute, Tipton e Freshit, disposte in modo attraente entro un'unica staccionata, era una prospettiva che lo allettava per il proprio figlio ed erede. Quindi, allorché Mr. Brooke fece appello annuendo a quel motivo, Sir James provò un imbarazzo improvviso, sentì un impedimento in gola, arrivò ad arrossire. Aveva trovato più parole del consueto nel primo empito di rabbia. Ma la propinazione di Mr. Brooke gli fece invischiare la lingua più delle insinuazioni caustiche di Mr. Cadwallader. Ma Celia fu lieta di poter trovare spazio per parlare dopo l'allusione fatta dallo zio alla cerimonia nuziale e disse, seppure con modi assai poco impazienti, come se si fosse trattato di un invito a cena: Volete dire che Dodo ha intenzione di sposarsi subito, zio? Fra 3 settimane, capisci? Disse Mr. Brooke con aria di impotenza. Non posso fare niente per impedirlo, Caduella, Der soggiunse, volgendosi verso il pastore alla ricerca di un po' di sostegno. Questi disse: Non farei tanto chiasso per la cosa. Se le piace essere povera, sono affari suoi. Nessuno avrebbe trovato da ridire se avesse sposato il giovanotto perché era ricco. Un sacco di preti con un beneficio sono più poveri di quanto lo saranno loro. Ecco qui, Elinor, proseguì il marito in tono provocatorio. Ha irritato la famiglia sposandomi. Avevo appena 1.000 sterline l'anno. Ero uno zotico. Nessuno riusciva a vedere niente in me. Le mie scarpe non erano del taglio giusto. Tutti gli uomini si chiedevano come mai potessi piacere a una donna. Parola mia. Devo prendere le difese di Ladislav finché non sentirò cose peggiori su di lui. Anfri, questi sono tutti sofismi e voi lo sapete, disse la moglie. Tutto è uguale. Questo per voi è l'inizio e la fine. Come se voi non fosse stato un Cadwallader. C'è qualcuno che pensa che mi sarei presa un mostro come voi se aveste avuto un qualsiasi altro nome? E per giunta prete, osservò Lady Chatham approvando. Non si può dire che Elinor sia scesa dal suo ceto sociale, ma è difficile dire cosa sia Mr. Ladislav, eh, James? Sir James emise un piccolo brontolio che era meno rispettoso della sua maniera consueta di rispondere alla madre. Celia alzò lo sguardo verso di lui come una gattina pensierosa. Bisogna ammettere che il suo sangue è una paurosa mescolanza, disse Mrs. Cadwallader, il fluido dell'osso di seppia di Chasuble per cominciare, e poi un ribelle polacco violinista e maestro di ballo, non è vero? E poi un vecchio stra... Stupidaggini, Elinor, disse il pastore alzandosi, è ora di andare. Dopotutto è un bel rampollo, disse Mrs. Cadwallader alzandosi a sua volta e desiderando scusarsi. È come i bei vecchi ritratti di Crickley prima che arrivassero gli idioti. Vengo con voi, disse Mr. Brooke, balzando in piedi con agilità. Domani dovete venire tutti a cena da me, lo sapete, eh? Celia, mia cara. Voi verrete, James, vero? Chiese Celia, prendendo per mano il marito. Oh, naturalmente, se volete, disse Sir James, tirandosi giù il panciotto, ma non riuscendo ancora a conferire al proprio viso un aspetto amabile. Cioè, purché non ci sia da incontrare nessun altro. No, no, no, no, disse Mr. Brooke, comprendendo la condizione. Dorotea non verrebbe, sapete, a meno che voi non foste andato a trovarla. Quando Sir James e Celia furono rimasti soli, questa disse: Mi dispiace se prendo la carrozza per andare a Lowick, James. Cosa? Adesso, immediatamente, gli rispose con una certa aria sorpresa. Sì, è molto importante, disse Celia. Celia, ricordate che io non posso andarla a trovare, disse Sir James. Neanche se rinunciasse a sposarsi? A che serve dire queste cose? Comunque vado alle scuderie, dirò a Briggs di portarvi la carrozza. Celia pensava che servisse moltissimo, se non dire queste cose, perlomeno fare una scappata a Lowick per premere su Dorotea. Per tutta la loro fanciullezza aveva avuto l'impressione di poter avere un ascendente sulla sorella, con una parola espressa giudiziosamente, aprendo una piccola finestra perché la luce diurna del suo intelletto entrasse fra le lampade stranamente colorate attraverso le quali Dodo vedeva abitualmente. E Celia, la madre di famiglia, come è naturale, si sentiva maggiormente in grado di consigliare la sorella senza figli. Chi poteva capire Dorotea bene come Celia o volerle un bene così tenero? Dorotea, affaccendata nel suo boudoir, sentì una vampata di piacere alla vista della sorella a così breve tempo dall'annuncio del progettato matrimonio. Si era immaginata, anche con una certa esagerazione, il disgusto dei parenti e aveva persino temuto che Celia le potesse essere tenuta lontana. Oh, Kitty, che piacere vederti, disse Dorotea, posando le mani sulla spalla di Celia e guardandola raggiante. Quasi quasi pensavo che non saresti venuta da me. Non ho portato Arthur perché avevo fretta, disse Celia, e si sedettero in due piccole poltrone l'una di fronte all'altra con le ginocchia che si toccavano. Lo sai, Dodo, è molto brutto, disse Celia, col suo placido tono gutturale e un aspetto graziosamente scevro di umorismo. Così ci hai deluso tutti e io non posso credere che succederà mai. Non potrei mai andare a vivere in quel modo. E poi ci sono tutti i tuoi progetti. Non ci deve aver pensato. James per te avrebbe fatto qualsiasi cosa e tu avresti potuto continuare per tutta la vita a fare quello che ti piaceva. Al contrario, cara, disse Dorotea, non avrei mai potuto fare quello che mi andava. Non ho ancora realizzato alcun progetto. Perché volevi sempre delle cose che non andavano bene, ma sarebbero venuti altri progetti. E come puoi sposare Mr. Ladislav, che nessuno di noi ha mai pensato che tu potessi sposare? James è così terribilmente scandalizzato. E poi è tutto così diverso da quello che sei sempre stata. Hai voluto prenderti Mr. Casebo perché aveva un'anima così grande ed era così vecchio e tetro e dotto. E adesso pensi di sposare Mr. Ladislav che non ha né patrimonio né altro. Suppongo che succeda così perché vuoi crearti dei disagi in un modo o nell'altro. Dorotea rise. Beh, è una cosa molto seria, Dodo, disse Celia diventando più solenne. Come vivrai? E andrai via fra della gente strana e io non ti vedrò più. E tu non ti preoccuperai del piccolo Arthur. E io che pensavo che avresti sempre... Celia, che piangeva di rado, aveva le lacrime agli occhi e gli angoli della bocca le fremevano. Cara Celia, disse Dorotea con dolce serietà, se non mi vedrai più non sarà per colpa mia. Sì, invece, disse Celia, storcendo i suoi piccoli lineamenti nello stesso modo toccante. Come potrò venire da te o averti da me quando James non lo tollererà? Questo è perché lui pensa che non sia giusto. Pensa che tu commetti uno sbaglio così grande, Dodo, ma ti sei sempre sbagliata. Solo io non posso fare a meno di volerti bene e nessuno riesce a pensare dove andrai a vivere. Dove potrai andare? Andrò a Londra, disse Dorotea. Come potrai vivere sempre in una strada e sarai così povera? Io potrei darti la metà delle mie cose, solo come posso farlo se non ti vedrò mai? Dio mio, Kitty, disse Dorotea con tenero calore, fatti coraggio. Forse James mi perdonerà un giorno o l'altro. Ma sarebbe molto meglio se non ti sposassi, disse Celia, asciugandosi gli occhi e tornando al suo ragionamento. Allora non ci sarebbe nulla di sgradevole e tu non faresti quello che nessuno pensa che potresti fare. James ha sempre detto che avresti dovuto essere una regina, ma questo non è per niente essere come una regina. Sai che sbagli, hai sempre fatto, Dodo. E questo è un altro. Nessuno pensa che Mr. Ladislav sia il marito adatto a te, e tu hai detto che non ti saresti mai risposata. È verissimo che potrei essere una persona più saggia, Celia, disse Dorotea, e che avrei potuto fare qualcosa di meglio se fossi stata migliore. Ma questo è ciò che ho intenzione di fare. Ho promesso di sposare Mr. Ladislav e lo sposerò. Il tono con cui Dorotea aveva pronunciato queste parole era una nota che Celia aveva imparato a riconoscere da tempo. Rimase muta per un po' e poi disse, come se avesse messo da parte ogni discussione: È molto innamorato di te, Dodo. Spero di sì. Io sono molto innamorata di lui. Questo è bello, disse Celia con aria serena, solo che preferirei che avessi un genere di marito come James. Con una casa molto vicina, dove potrei venire in carrozza. Dorotea sorrise e Celia parve alquanto meditabonda. Ben presto disse: Non riesco a pensare come tutto sia successo. Celia pensava che sarebbe stato piacevole sentire la storia. Lo credo bene, fece Dorotea stringendo il mento della sorella. Se sapessi com'è successo, non ti sembrerebbe stupendo. Non puoi dirmelo? Chiese Celia mettendosi a proprio agio con le braccia. No, cara, dovresti sentire quello che sento io, altrimenti non lo capiresti mai. Capitolo 85. Quando l'immortale Buyan traccia il quadro delle passioni persecutrici che emanano il verdetto di consapevolezza, chi prova compassione per Fedele? È un raro e benedetto destino che alcuni degli uomini più grandi non hanno conosciuto, sapersi innocenti di fronte a una folla vendicativa e avere la certezza che ciò per cui siamo condannati è soltanto il bene che è in noi. La sorte lacrimevole è quella dell'uomo che non potrebbe definire a se stesso un martire, neppure se dovesse convincersi che gli uomini che lo lapidano non sono che delle malvagie passioni personificate, che sa di venire lapidato non perché professa la giustizia, ma perché non è l'uomo che egli ha dichiarato di essere. Questo era il pensiero che faceva languire Balstrò mentre compiva i preparativi per partire da Middlemarch e e andare a terminare la sua vita straziata in quel triste rifugio, l'indifferenza di volti nuovi. L'ubbidiente compassionevole fedeltà della moglie lo aveva liberato da un timore, ma ciò non poteva impedire che la presenza di lei fosse ancora un tribunale di fronte al quale egli rifuggiva dalla confessione e chiedeva difesa. Il suo giocare interiormente con gli equivoci a proposito della morte di Raffles aveva sostenuto l'idea di un'onniscienza a cui egli rivolgeva le preghiere. Eppure egli era sopraffatto da un terrore che non gli consentiva di sottoporre quegli equivoci a un giudizio confessandoli apertamente alla moglie. Le azioni che gli aveva lavato e annacquato, con argomentazioni e motivazioni interiori, e per le quali sembrava relativamente facile procurarsi un perdono inevitabile. Con che nomi le avrebbe chiamate la moglie? Ciò che egli non poteva sopportare era il pensiero che lei le potesse chiamare tacitamente assassino. Si sentiva avvolto dal dubbio di lei, traeva la forza per guardarla dalla sensazione che lei non poteva ancora sentirsi autorizzata a pronunciare quella condanna estrema nei suoi confronti. Un giorno, forse, in punto di morte, le avrebbe detto tutto. Nell'ombra profonda di quel momento, quando lei gli avrebbe tenuto la mano nell'oscurità crescente, avrebbe potuto ascoltarlo senza ritrarsi dal suo contatto. Forse, ma l'occultamento era stato l'abitudine della sua vita e l'impulso a confessarsi non aveva forza contro il timore di un'umiliazione più intensa. Era pieno di timorose premure per la moglie, non solo perché voleva scongiurare ogni aspro giudizio da parte sua, ma perché provava un dolore profondo alla vista della sua sofferenza. Lei aveva mandato via le figlie in un collegio sulla costa, affinché quella crisi del marito fosse loro celata il più possibile. Liberata, grazie alla loro assenza, dall'intollerabile necessità di dare spiegazioni sul proprio dolore o dalla vista del loro stupore atterrito, poteva vivere disinvoltamente in compagnia del dolore che ogni giorno le striava di bianco i capelli e le rendeva fiacche le palpebre. Ditemi qualsiasi cosa che vorreste farmi fare, Harriet, le disse Balstrow. Intendo dire riguardo alle disposizioni sugli immobili. È mia intenzione non vendere la terra che possiedo qui, ma lasciarvela come un modo sicuro di provvedere a voi. Se avete qualche desiderio in proposito, non nascondetemelo. Alcuni giorni dopo, al ritorno da una visita al fratello, lei cominciò a parlare al marito di un argomento che aveva in mente da un po' di tempo. Vorrei davvero fare qualcosa per la famiglia di mio fratello, Nicholas, e penso che abbiamo l'obbligo di fare in qualche modo ammenda a Rosamond e al marito. Walter dice che Mr. Lydgate deve lasciare la città e la sua clientela oramai non vale un soldo ed è loro rimasto molto poco per stabilirsi da un'altra parte. Preferirei rinunciare a qualcosa per noi, per fare in qualche modo ammenda alla famiglia del mio povero fratello. Mrs. Balstrow non voleva avvicinarsi di più ai fatti che con l'espressione fare in qualche modo ammenda, sapendo che il marito doveva capire. Questo aveva un motivo particolare di cui lei non era a conoscenza per trasalire a questo suggerimento. Esitò prima di dire: Non è possibile esaudire il vostro desiderio nel modo che proponete, mia cara. Mr. Lydgate ha virtualmente rifiutato ogni ulteriore assistenza da parte mia. Mi ha restituito le 1.000 sterline che gli avevo prestato. Allo scopo, Mrs. Casebo gli ha anticipato la somma. Ecco la lettera di Lydgate. La lettera parve ferire gravemente Mrs. Balstrow. L'accenno al prestito di Mrs. Casebo parve un riflesso di quel sentimento generale per cui si considerava naturale che tutti volessero evitare un rapporto col marito. Tacque per un po' di tempo e le lacrime le scesero una dopo l'altra e il mento le tremava mentre se le tergeva. Balstrow, seduto davanti a lei, stava male alla vista di quel volto consumato dal dolore che 2 mesi prima era stato luminoso e fiorente. Era invecchiato per tenere triste compagnia ai suoi lineamenti raggrinziti. Spinto a compiere un qualche sforzo per confortarla, disse: C'è un altro mezzo, Harriet, per poter fare un servigio alla famiglia di vostro fratello, se siete disposta a metterlo in pratica. E penso che vi porterebbe dei benefici. Sarebbe un modo vantaggioso di amministrare la terra che intendo lasciarvi. Lei si fece attenta.